Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Euroreportage. Frontex, la super agenzia per la fortezza europea, di Valentina Furlanetto. Sette anni fa esatti, il 3 ottobre 2013, un barcone naufragò a poche miglia dal porto di Lampedusa. Con 368 morti, fu una delle più gravi catastrofi marittime del Mediterraneo degli ultimi anni. Dopo il naufragio nacque Mare Nostrum, missione militare ed umanitaria per il salvataggio in mare, ma appena un anno dopo Mare Nostrum venne sostituita da un'altra agenzia. La missione non era più il salvataggio in mare, ma il presidio dei confini. Frontex, come la conosciamo noi, nasce nel 2016 ed è stata istituita per coordinare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea da parte degli Stati membri. In questi anni è cresciuta fino a diventare una delle più grandi agenzie della Commissione Europea. Con l'ultima decisiva riforma, Frontex dispone ora di uno Standing Corps, un corpo di frontiera, che verrà ampliato fino a 10.000 persone. Di queste, 3.000 dipenderanno direttamente dall'agenzia e non saranno unità prestate da altri paesi. La novità assoluta è che avrà personale armato con un'uniforme europea e propri mezzi. Il budget di Frontex è passato dai 143 milioni annuali del 2016 a oltre 11 miliardi di euro previsti per il periodo 2021-2027. L'agenzia si sta rapidamente trasformando in un gigante, una crescita perfettamente omogenea alla visione della Commissione europea attuale. Subito dopo essere stata eletta Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Europa ha bisogno di più persone a guardia dei suoi confini. Durante la presentazione del nuovo Patto europeo sull'immigrazione, il vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas, pochi giorni fa si esprimeva così. Il patto è come una casa a tre piani. Il primo riguarda i rapporti con i paesi d'origine e di transito dei migranti. Il secondo tratta le frontiere più esterne ed esposte dell'Unione. Il terzo mira a gestire i rapporti fra gli Stati membri dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, andranno potenziati i controlli a cui vengono sottoposti i migranti che entrano in territorio comunitario, aggiungendo all'attuale raccolta delle impronte digitali anche altri controlli di sicurezza e di salute. Frontex diventerà un'agenzia più attiva, un vero e proprio braccio operazionale. Quella di Frontex è una dotazione senza pari nella storia delle agenzie europee per compiti e finanziamenti. Come li spende dunque tutti questi soldi Frontex? Il budget andrà ad aumentare il numero di dipendenti, ma non solo. L'agenzia per il monitoraggio utilizza aerei e aeromobili a pilotaggio remoto, in altre parole droni. Si tratta di aerei da ricognizione, telecamere aeree sofisticate e costose. In caso di naufragio però sono irrilevanti. Potrebbero al massimo registrare in video le persone che annegano. Ma mentre Frontex mostra i muscoli, le polemiche si moltiplicano. C'è chi fa notare che la stessa potenza di fuoco economica di cui è dotata l'agenzia, che viene spesa in droni e personale, potrebbe essere usata per politiche di integrazione. Molte organizzazioni in tutta Europa sollevano critiche a Frontex sul fronte invece dei diritti umani. Abbiamo sentito dalla Germania Karl Kopp di Pro Asylum Foundation. Frontex è una super agenzia che nel nuovo patto per le migrazioni della Commissione europea deve essere ulteriormente rafforzata per sigillare le frontiere esterne dell'Europa in modo più ermetico. Il piano migrazione di von der Leyen lascia in atto tutti i meccanismi che hanno condannato decine di migliaia di rifugiati ad affrontare l'annegamento nel Mediterraneo. Il patto è così cinico e disumano che è difficile trovare le parole per descriverlo. Guidata da populisti di destra, la Commissione UE sta tradendo il diritto di asilo e i diritti umani delle persone in cerca di protezione. A proposito delle violazioni dei diritti umani perpetrate da Frontex, posso dire che tra l'autunno del 2016 e l'inverno del 2017, ben prima del suo nuovo mandato, importanti organizzazioni umanitarie per i diritti umani hanno allertato la Commissione europea e Frontex sul presunto uso della forza estrema da parte delle autorità ungheresi che lavoravano a fianco degli agenti di Frontex, quando si trattava di persone che cercavano di attraversare irregolarmente dalla Serbia. Inoltre Frontex dispiega rinforzi a Evros tra Grecia e Turchia dall'11 marzo. Questa operazione manca di una base giuridica adeguata, poiché Frontex sta intervenendo in un paese, la Grecia, che ha sospeso per un mese il ricevimento della domanda di asilo. Ma anche dall'Italia arrivano perplessità. Anna Brambilla, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Siamo particolarmente preoccupati per gli accordi che sono stati sottoscritti tra l'Unione Europea e i paesi terzi dell'area balcanica per consentire a Frontex, all'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera, di fare operazioni nel territorio degli stati terzi finalizzate anche a contrastare il crimine transfrontaliero e la criminalità organizzata in generale, ma soprattutto per controllare e contrastare l'immigrazione irregolare. E poi c'è un problema proprio di responsabilità. C'è un'immunità prevista dagli accordi sottoscritti con questi stati che riguarda l'ambito penale, il territorio dello Stato terzo, che è comprensibile ma fino ad un certo punto, perché comunque, ripeto, l'obiettivo principale di queste operazioni alla fine è il contrasto all'immigrazione irregolare. Allora un conto è se tu usi la forza e sei coinvolto in un'operazione in cui appunto si prevede l'uso della forza per contrastare la criminalità organizzata, non è legittimo nemmeno quello, però insomma è un pochino più comprensibile. Un conto è se tu vuoi fermare con l'uso della forza dei migranti irregolari e usi la forza per questo. Cioè ci sono molte ombre anche in questo senso. E Frontex cosa dice? Avremmo voluto saperlo, abbiamo chiesto un'intervista, ma in 15 giorni l'ufficio stampa dell'agenzia non ha trovato un interlocutore a Varsavia con cui potessimo parlare al telefono. Da Strasburgo invece ci ha risposto l'europarlamentare e medico Pietro Bartolo, che oggi lavora all'Europarlamento su questi temi e che il 3 ottobre 2013 era sulla banchina di Lampedusa mentre non distante si consumava la più grande tragedia del Mediterraneo da inizio anni 2000. Quando mi ha chiamato la capitaneria di porto, ho detto: dottore, vada subito in banchina, è stato un naufragio, ci sono tanti morti. Ma non pensavo tanti morti, e quanti bambini ho dovuto vedere, e quanto ho pianto, sa, e non mi vergogno a dirlo, quanto ho pianto quel giorno e anche nei giorni successivi. A distanza di anni quelle immagini le tornano mai alla mente? Mi perseguitano, spesso ho gli incubi. Un incubo seguente è quel bambino, quel primo bambino che ho visto nel primo sacco, quel bambino piccolo col pantaloncino rosso e la maglietta bianca. Quello che mi sembrava vivo, che l'ho spogliato, me lo sono portato all'orecchio, lo scotevo, lo guardavo negli occhi. Come si fa a dimenticare, come si fa? Cosa ne pensa di Frontex? Ma guarda, di Frontex io vedo che sono dei poliziotti, sono delle persone messe là per controllare le frontiere, per sicuramente non hanno il compito quello di andare a salvare nessuno. Di questo mi dispiace molto, perché l'Europa dovrebbe essere più frequente rispetto a questa possibilità di creare un'agenzia. Io avevo portato dal primo momento, insieme con altri colleghi, abbiamo portato avanti una risoluzione che prevedeva la ricerca e soccorso in mare come un qualcosa di europeo. Purtroppo, con mio grande dispiacere, dopo 6 mesi di lavoro in plenaria questa risoluzione non è passata, e questo mi ha fatto veramente tanto male. Sono mancati due voti, erano 298 contro 300, per due voti quella risoluzione non è passata. Sapevo che ovviamente gli ungheresi, insomma, che la parte, quelle che sono vicino a Orban, vicino alla Polonia, quelle che non vogliono, era scontato che non votassero, ma mi è dispiaciuto invece che 15 voti non